Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. APP, Asia Pulp and Paper, è il terzo produttore mondiale di carta e polpa di legno e fino a 2 o 3 anni fa era annoverato tra i principali responsabili della deforestazione, direi a livello mondiale, in particolare della distruzione delle foreste thailandesi, che è un ecosistema caratterizzato da una capacità di sequestro del carbonio tra le più alte al mondo. Ma una campagna anche molto aggressiva di Greenpeace e di altre associazioni ambientaliste, alcune immagini della devastazione lasciata sul terreno dal colosso della carta, dove prima c'era una foresta lussureggiante, sono diventate celebri. Ebbene, questa campagna è costata la perdita di commesse pesanti. Insomma, alla fine APP 2 anni fa ha deciso un cambio brusco di rotta, direi proprio un'inversione a 180 gradi, che è stata riconosciuta anche dalle stesse associazioni ambientaliste e da Greenpeace. Ne parliamo con Danilo Benvenuti, che è Regional Manager per l'Europa appunto di APP. Buonasera, benvenuti. Buonasera a lei. Allora, intanto le chiedo proprio di raccontarci quali sono in concreto le azioni che avete dovuto fare, che state facendo, siete anche in anticipo, a dire il vero, sulla tabella di marcia, per cessare l'abbattimento di foreste vergini. Sì, difatti noi nel 2012, come giustamente diceva lei, abbiamo annunciato la nostra roadmap 2020 sulla visione sostenibile del gruppo. I cardini sono 4, quelli principali sui quali si basa questa policy di tutela forestale. La zero deforestazione, che è già in atto per quello che riguarda le politiche di APP da 2 anni, la riduzione dei gas supportando l'obiettivo del governo indonesiano nella riduzione dei gas serra, la salvaguardia delle popolazioni locali e ovviamente la cautela nell'approvvigionamento delle risorse esterne. APP utilizza materie prime provenienti da tutto il mondo e quindi dobbiamo sviluppare delle misure che ci assicurino che tali approvvigionamenti rispettino i principi di una gestione forestale sostenibile. Ecco, concretamente cosa avete dovuto fare? Dovete cambiare filiera di approvvigionamento? Non saranno gli stessi che prima tagliavano le foreste a occuparsi di colture o sì? Cosa succede? Ma dottore, credo vada intanto specificato che tutta la produzione del gruppo non si basava sulle foreste vergini. Non lo era prima, oggi non lo è più. Oggi non lo è più, lei dice, perché le coltivazioni non è che vengono su da un giorno all'altro, non quelle di legno soprattutto. Quindi, come dire, esiste la possibilità di sostenere questa domanda, le chiedo magari addirittura anche a livello mondiale, con delle coltivazioni appunto che rispettino le foreste vergini? Credo che esista e va anche considerato che la differenza di tempi di crescita delle piantagioni e degli alberi in Asia è un po' diversa da quella che noi siamo abituati a avere in Europa. Sì, crescono velocemente lì, lei dice. Sì, diciamo che in 6 anni diciamo si è pronti al taglio, cosa che in altri continenti servono 12, 13, a volte anche 15 anni. Poi credo che oggi ci siano sufficienti impianti e sufficienti piantagioni che possano permettere il non utilizzo delle foreste vergini. Proprio per rafforzare questo tipo di impegno, ad aprile di quest'anno abbiamo annunciato un ulteriore 1 milione di ettari che saranno riservati come area protetta sulle foreste primarie indonesiane. Ecco, sì, tra l'altro questo è un aspetto molto, molto significativo, credo. Cioè, state, se ho capito bene, tramite un'altra entità che si chiama TFT, sono degli esperti di gestione forestale, individuando le aree che hanno il più alto accumulo di carbonio, perché quelle vanno salvaguardate, perché poi non si sa spesso che il carbonio viene appunto stoccato anche nel terreno, per esempio. Quando si deforesta si libera di fatto anche il carbonio che sta nel terreno, no? E questo bisogna evitare assolutamente a questo punto. Difatti questo 1 milione di ettari che è stato identificato, lo è stato identificato insieme a molti stakeholder, tra cui WWF, Greenpeace, oltre che Forest Trust, e proprio con loro sono state identificate le aree di conservazione e recupero che sono essenziali, come giustamente dice lei. Questo è un primo passo, è un ulteriore passo, oltre che nel processo industriale, anche nella conservazione e nel recupero del paesaggio. Ultima domanda, volevo capire più o meno qual è l'incidenza dell'aver sposato questa filiera sostenibile rispetto a quella di prima che era insostenibile, qual è l'impatto economico per quello che mi può dire, mi rendo conto che non ci può fare rivelazioni, ma... Ma credo che non si tratti di rivelazioni, è un po' difficile quantificarlo in termini numerici molto rapidamente, anche perché è un processo in atto, è un processo che durerà ancora molto tempo, sicuramente impatterà sui profitti e quindi lo consideriamo come un investimento a breve, medio e lungo termine, e che cercheremo di calcolare nel corso del tempo azione per azione. Questo roadmap 2020 per noi è sicuramente, credo, uno dei più grossi investimenti che abbiamo fatto nell'ultimo decennio. Grazie Danilo, benvenuti. Buonasera a lei. Ci fermiamo qui, ci risentiamo domani.